Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. La festa ponte non fu un successo, almeno non fu quello che Mrs. Moore e Miss Questide erano abituate a considerare un ricevimento riuscito. Poiché era dato in loro onore, arrivarono presto, ma la maggior parte degli ospiti indiani erano arrivati ancora prima e se ne stavano tutti in gruppo dall'altra parte del campo da tennis senza sapere che fare. «Sono soltanto le 5», disse Mrs. Tarton. «Mio marito tornerà dall'ufficio a momenti e allora si comincerà. Io non ho idea di quello che dobbiamo fare. È la prima volta che diamo un ricevimento simile al circolo». «Signor Islop, quando sarò morta e sepolta, voi darete ricevimenti come questi? Quanto basta per fare rivoltare nella tomba il Gran Sahib vecchio stile?» Ronnie accennò una rispettosa risata. «Volevi qualcosa di non pittoresco e te l'abbiamo procurato», disse a Miss Questide. «Cosa ne pensi del fratello indiano in casco e ghette?» Nessuna risposta, né da lei né dalla madre. Stavano guardando con una certa malinconia oltre il campo da tennis. No, non era pittoresco. L'Oriente, abbandonata la sua secolare sontuosità, stava scendendo in una valle di cui nessun uomo riesce a scorgere l'altro lembo. Il punto da tenere a mente è che qui non c'è nessuno che conti. Quelli che contano non vengono. «Non è così, Mrs. Tarton?» «Verissimo», disse la gran dama, appoggiandosi alla spalliera. «Si stava tenendo da conto, come diceva lei, non per qualcosa che sarebbe accaduto quel pomeriggio né quella settimana, ma per una vaga occasione futura in cui poteva capitare qualche alto funzionario a mettere a dura prova la sua resistenza mondana. Quasi tutte le sue apparizioni in pubblico erano contrassegnate da quest'aria di riserbo». Certo della sua approvazione, Ronnie continuò. «Se ci fosse un tafferuglio, gli indiani colti non ci sarebbero di nessuna utilità, quindi non vale assolutamente la pena di farseli amici. Per questo non contano. Di quelli che vedete, la maggior parte sono rivoltosi nati e gli altri scapperebbero strillando». «Quanto agli agricoltori, è un'altra storia. Ma questa gente, non illudetevi che siano l'India». Indicò la fila bruna oltre il cortile, e qua e là fiammeggiò un paio di occhiali o scalpicciò una scarpa, come se quelli si rendessero conto che egli li disprezzava. La moda europea era piombata su di loro come una lebbra. Pochi li avevano ceduto completamente, ma nessuno ne era immune. Oh! Quando Ronnie ebbe finito di parlare, ci fu un silenzio di qua e di là del cortile. O meglio, altre signore si avvicinarono al gruppo inglese, ma le loro parole parvero morire appena pronunciate. Qualche nibbio si librava sulle loro teste, imparziale. Al di sopra dei nibbi passò la mole di un avvoltoio, e con una imparzialità che vinceva tutto, il cielo, non di colore intenso, ma traslucido, versava luce da tutto il suo cerchio. Pareva improbabile che la serie finisse qui. Oltre il cielo non deve esserci qualcosa che sovrasta come un arco tutti i cieli, ancora più imparziale di loro? E oltre quella ancora... Parlarono della cugina Kate. Avevano cercato di riprodurre sul palcoscenico il proprio atteggiamento verso la vita e di mascherarsi da inglesi del ceto medio quali erano. L'anno prossimo avrebbero dato Quality Street o The Yeoman of the Guard. Tolta questa scorribanda annuale, non si impicciavano di letteratura. Gli uomini non ne avevano il tempo, le donne non facevano niente che non potessero condividere con gli uomini. La loro ignoranza delle arti era insigne, e non perdevano occasione di vantarsene tra loro. Era una posa da public school, e attecchiva con un rigoglio che in Inghilterra non si può sperare. Se gli indiani erano il lavoro, le arti erano mala creanza. Mrs. Moore notò adesso come il figlio fosse diventato corrivo e convenzionale nei suoi giudizi. Quando in passato avevano visto insieme la cugina Kate a Londra, lui ne aveva riso. Ma ora, per non urtare i sentimenti di nessuno, sosteneva che era una buona commedia. Sul giornale locale era apparsa una recensione scortese, proprio una cosa che nessun bianco avrebbe potuto scrivere, come disse Mrs. Leslie. Si lodava la commedia, naturalmente, e anche la messa in scena e l'interpretazione nell'insieme, ma l'articolo conteneva la frase seguente: Miss Derek, sebbene deliziosamente adatta al proprio personaggio, mancava della necessaria esperienza e ogni tanto dimenticava le battute. Questo tenue soffio di sincera critica era stata una profonda offesa, non per Miss Derek, a dire il vero, che era dura come un macigno, ma per i suoi amici. Miss Derek non faceva parte di Chandrapur, stava trascorrendo una quindicina di giorni dai McBride, quelli della polizia, ed era stata così gentile da colmare all'ultimo momento un vuoto nella distribuzione. Avrebbe riportato un bel ricordo dell'ospitalità locale. Un gruppetto di signore indiane si era radunato in un punto del parco, vicino a un padiglione rustico nel quale la più timida si era già rifugiata. Le altre, in piedi, dando le spalle alla compagnia, affondavano i visi nella siepe di cespugli. A poca distanza c'erano i loro congiunti maschi, che osservavano quell'avventura. Lo spettacolo era significativo, un'isola lasciata nuda dalla bassa marea e destinata a ingrandirsi. Mi pare che dovrebbero essere loro a venire da me. Andiamo, Mary, non ci badare. Mi rifiuto di dare la mano agli uomini, chiunque siano, a meno che non si tratti del Nawab Bahadur. Che abbiamo finora? Passò lo sguardo sulla fila. Come c'era da prevedere. Quello sappiamo perché è qui, credo, per l'appalto. E quell'altro vuole tenermi buono per la festa del Mohurram. E poi c'è l'astrologo, che vuole scavalcare il regolamento urbanistico della città. E c'è quel Parsi e c'è... Opla, ci siamo! Si è spiaccicato nella nostra malva. Ha tirato le redini a sinistra invece che a destra. Siamo alle solite. Non si sarebbe mai dovuto permettere a questa gente di entrare con le vetture. Per loro non c'è niente di peggio, disse Mrs. Tarton, che finalmente aveva cominciato a incamminarsi verso il padiglione in compagnia di Mrs. Moore, di Miss Quested e di un terrier. Che vengano proprio non lo so. Sono cose che loro odiano quanto noi. Vorreste dirci chi sono queste signore? Chiese Mrs. Moore. In ogni caso, gente a cui voi siete superiore. Non dimenticatelo, eh? Siete superiore a chiunque in India, all'infuori di una o due rani, e quelle sono vostre eguali. E proseguendo strinse la mano a quel gruppo di signore e disse qualche parola di benvenuto in urdu. Aveva imparato quell'idioma, ma solo per parlare coi servi, sicché non conosceva nessuna delle forme di cortesia e dei verbi soltanto l'imperativo. Non appena ebbe finito il suo discorsetto, domandò alle compagne: «Era questo che volevate?» «Per piacere, dite a queste signore che avremo desiderio di parlare la loro lingua, ma siamo appena arrivate nel loro paese». «Forse noi parliamo un po' con la vostra», disse una delle signore. «Oh, guarda, capisce», disse Mrs. Tarton. «Eastbourne, Piccadilly, Hyde Park Corner», disse un'altra delle signore. «Oh sì, sanno l'inglese. Ma allora possiamo chiacchierare, che bellezza», esclamò Adela col viso raggiante. «Conosce anche Parigi», disse uno degli spettatori. «Trovano Parigi sulla loro strada, si capisce», disse Mrs. Tarton, come se stesse descrivendo le rotte degli uccelli migratori. I suoi modi si erano fatti più riservati da quando aveva scoperto che qualcuna del gruppo era occidentalizzata e poteva giudicarla col suo stesso metro. La signora più bassa è mia moglie, Mrs. Battaciaria, spiegò lo spettatore. La signora più alta è mia sorella, Mrs. Das. La signora più bassa e quella più alta si accomodarono i sari sorridendo. C'era una strana incertezza nei loro gesti, come se cercassero una nuova formula che né l'Oriente né l'Occidente era in grado di offrire. Quando suo marito parlava, Mrs. Battaciaria volgeva il viso dall'altra parte, ma non si curava affatto di vedere gli altri uomini. In realtà tutte le signore erano incerte, si facevano piccole, si riprendevano, ridacchiavano, facevano brevi gesti di stupore o di disperazione a tutto quello che si diceva, e ora accarezzavano il terrier, ora se ne scostavano. A Miss Quested adesso si offriva l'occasione tanto attesa. Era alla presenza di indiani amici e cercò di farli parlare, ma non ci riusciva e lottava invano contro la muraglia tutta echi della loro cortesia. Ogni sua parola destava un mormorio di scontento che si mutò in un mormorio di preoccupazione quando lasciò cadere il fazzoletto. Provò a non fare nulla per vedere cosa sarebbe successo e anche loro non fecero nulla. Intanto Mr. Tarton faceva il suo giro. Lasciò cadere frasi gentili e motti di spirito che ottennero calorosi consensi, ma poiché sapeva qualcosa di spiacevole sul conto di quasi tutti gli ospiti, si limitò al puro galateo. Se non di truffa, si trattava di droga, di donne o peggio ancora, e perfino i più accettabili volevano cavargli qualcosa. Era convinto che una festa ponte fosse più utile che dannosa, altrimenti non l'avrebbe data, ma non si faceva illusioni e al momento buono si ritirò verso la zona inglese del prato. Le impressioni che lasciò dietro di sé furono svariate. Molti degli ospiti, specie i più umili e i meno anglicizzati, provavano una sincera gratitudine. Sentirsi rivolgere la parola da un così alto funzionario era un bene inalienabile. Pazienza, se stavano in piedi così a lungo, o se non succedeva proprio niente, e quando furono le 7 bisognò metterli fuori. Altri furono grati con più intelligenza. Il Nawab Bahadur, indifferente a quello che lo concerneva e agli onori che gli erano resi, era commosso dal senso di pura cortesia che doveva avere ispirato l'invito. Sapeva quanto la cosa era difficile. Anche Hamidullah pensava che l'intendente se l'era cavata bene. Altri però, come Mahmud Ali, rimasero scettici. Avevano la ferma convinzione che Tarton avesse dovuto dare quella festa per ordine dei suoi superiori e si fosse rosso di rabbia impotente dal principio alla fine, e contagiarono alcuni che erano disposti a un giudizio più equanime. Tuttavia, perfino Mahmud Ali era contento di esserci andato. I santuari, specie quando si aprono di rado, sono affascinanti, ed egli si divertì a osservare il rituale del circolo inglese e a farne poi la caricatura con i suoi amici. Babuji dhire chalna, kar me zara sambhalna. Bade dhoke hai, bade dhoke hai is raah mein. Babuji dhire chalna, kar me. Dopo Mr. Tarton, il funzionario che fece meglio il proprio dovere fu Mr. Fielding, il direttore del piccolo istituto governativo. Conosceva poco il distretto e meno ancora gli abitanti, sicché era in uno stato d'animo meno cinico. Atletico e gioviale, scherzava rumorosamente, infilando innumerevoli gaffe che i genitori dei suoi allievi cercavano di dissimulare, data la grande popolarità di cui godeva tra loro. Quando furono serviti i rinfreschi, non tornò tra gli inglesi. Parlava a chiunque e mangiava di tutto. Tra la congerie di cose che non lo riguardavano, seppe che le due nuove signore venute dall'Inghilterra avevano avuto molto successo. Incontrò la giovane da sola. Stava guardando da un interstizio della siepe dei cactus i lontani monti Marabar, che si erano furtivamente accostati come solevano al tramonto. Se il tramonto fosse durato abbastanza avrebbero raggiunto la città, ma era tropicale e brevissimo. Fielding la invitò al tè con l'altra signora. Ne sarò lietissima, e so che anche Mrs. Moore lo sarà. Sono una specie di eremita, sa. In un posto simile è certo la soluzione migliore. Per via del mio lavoro e per tante altre cose non vengo molto qui al circolo. Lo so, e noi invece non ce ne allontaniamo mai. Vi invidio che state con gli indiani. Vi farebbe piacere di conoscerne qualcuno? Molto, moltissimo. È proprio quello che desidero. La festa di oggi mi fa rabbia e mi fa pena. Ho l'impressione che i miei connazionali di qui siano matti. Invitano la gente e poi la trattano senza riguardo. Che roba! Quando cominciò il tennis, la barriera si fece impenetrabile. La speranza era stata di assistere a qualche partita tra Oriente e Occidente, ma poi non se ne parlò più, e i campi divennero riservato dominio delle solite coppie del circolo. Ne era seccato anche Fielding, ma la ragazza non lo disse, perché nel suo sdegno avvertiva qualcosa di teorico. Batati tu picha din din na din din na, batati tu picha na, batati tu picha din din na din din na, batati tu picha na, batati tu picha din din na din din na, din din na din din na. Le domandò se le interessasse la musica indiana. All'istituto c'era un vecchio professore che cantava. Proprio quello che volevamo sentire. E voi conoscete il dottor Azizzo? Ah, so tutto di lui, ma non lo conosco. Volete che lo inviti? Mrs. Moore lo trova così simpatico. Benissimo, Miss Quested. Va bene giovedì? Ma certo. Non chiederò al magistrato di città di accompagnarvi. So che a quell'ora avrà da fare. Eh sì, Ronnie è sempre impegnatissimo, rispose lei, fissando le montagne. Com'erano belle, tutto a un tratto. Ma non poteva toccarle. Davanti a lei, come una persiana, calò la visione della sua vita coniugale. Tutte le sere, lei e Ronnie avrebbero fatto la loro visitina al circolo, poi sarebbero corsi a casa per cambiarsi, avrebbero visto i Leslie e i Callendar e i Charlton e i Barton, li avrebbero invitati, ne sarebbero stati invitati, mentre la vera India sgusciava via incognita. Sarebbe rimasto il colore, la parata degli uccelli di prima mattina, corpi bruni, turbanti bianchi, idoli, dalle carni rosse o azzurre, sarebbe rimasto il movimento finché c'erano folle nel bazar e bagnanti nelle piscine, e lei li avrebbe veduti standosene appollaiata sul sedile di un carrozzino. Ma la forza che si cela dietro il colore e il movimento le sarebbe sfuggita ancora più irrimediabilmente che adesso. Avrebbe visto l'India sempre come un fregio, mai come uno spirito. E proprio di uno spirito riteneva che Mrs. Moore avesse avuto un barbaglio. Usciti gli ospiti, e quando Adela si era già coricata, ci fu un altro colloquio tra madre e figlio. Lui voleva consiglio e appoggio, ma le intromissioni lo offendevano. «Adela con te parla molto?» cominciò. «Io sono così stritolato dal lavoro che non la vedo quanto speravo, ma mi auguro che si trovi bene. Adela ed io parliamo soprattutto dell'India. Caro, visto che mi parli di questo, hai proprio ragione». Dovreste incontrarvi più spesso da soli. Forse sì, ma allora la gente chiacchiererebbe. Beh, devono pur chiacchierare qualche volta, lascia che chiacchierino. La gente qui è così strana, non è come in patria. Uno è sempre sotto le luci della ribalta. Beh, per farti un esempio stupidissimo, Adela al circolo è andata sino in fondo al parco e Fielding l'ha seguita. Ho visto che la signora Callender l'ha notato, notano tutto. Finché non sono assolutamente sicuri che sei come loro. Credo che Adela non sarà mai completamente come loro. Ha troppa personalità. Lo so, ed è una cosa talmente spiccata in lei, disse Ronnie pensieroso. Mrs. Moore lo giudicò piuttosto assurdo. Abituata al riservo di Londra, non arrivava a rendersi conto che l'India, pur sembrando così misteriosa, ne è del tutto priva, e che quindi le convenzioni sono molto più forti. «Non c'è niente che la preoccupi, immagino», continuò lui. «Domandaglielo. Domandaglielo tu stesso, figlio mio. Avrà sentito le solite chiacchiere sul caldo, ma naturalmente appena arriva aprile la spedirei in collina. Non sarei certo l'uomo da tenere una moglie ad abbrustolire in pianura». «Oh, non si tratta di clima. In India non c'è che il clima, cara mamma. È l'alfa e l'omega di tutta la questione». Sì, lo diceva anche Mrs. McBride, ma è molto più probabile che a dare sui nervi ad Adela siano proprio Gli anglo-indiani, vedi, lei trova che non si comportano gentilmente con gli indiani. Che cosa ti dicevo? Esclamò lui mettendo da parte le belle maniere. L'ho capito la settimana scorsa. Oh, quanto è da donna preoccuparsi di simili bazzecole. Nel suo stupore, Mrs. Moore dimenticò Adela. Bazzecole? Bazzecole? Ripeté. Ma com'è possibile? Ronnie rispose. Non siamo qui per comportarci gentilmente. Che cosa vuoi dire? Quello che dico. Siamo qui per fare giustizia e mantenere la pace. Ecco la mia opinione. L'India non è un salotto. Oh, la tua opinione è quella di un dio, disse lei pacatamente. Ma ad infastidirla erano più i modi che le opinioni del figlio. Cercando di dominarsi, lui disse, all'India piacciono gli dèi. La madre rispose, e agli inglesi piace di atteggiarsi a dèi. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.